Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. La nostra caduta nel tempo non si arresta, se non per un istante, come sassolini nella strozzatura della clessidra. E in quell'istante di immobilità indossiamo una maschera e procediamo al buio. Oggi la nostra missione è un grottesco scambio di coppie. Everybody, listen carefully. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, lacrima dopo lacrima, alla scoperta dei duetti che hanno sudato e bagnato milioni di fazzoletti e di mutandine in una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Niente, non gira proprio. Quella cazzo di Feel Like non vuole prendere una merda di forma. Non ha tiro, non ha groove. All'inizio l'idea della collaborazione era sembrata una figata, ma adesso il Duca ci ha ripensato. Vuole uscire dalla sala prove e mandare tutto a puttane. Così chiede a John di ridargli il suo basso. Ma John sta strimpellando per i cazzi suoi, una delle sue assurde linee che non funzioneranno mai. Troppo ritmiche, troppo elementari. Anche se questa... forse, ma sai che a risentirla può uscirci una mezza canzone? Slashed and torn. In Italia. gelosia di te. Per ogni tua pazzia ne fa una malattia, tanto che a volte ti viene voglia di mandarlo via. Però lui no, l'amico no, tenente al mondo io lo perderò. Litigheremo sì, e lo sa lui perché è pure il mio miglior amico. Polaroid, istantanee di storia della musica, solo su Radio 105. 1987. Si può pregare per un no? Perché qualcosa non accada? Per un rifiuto, per un diniego, per un fallimento? Sì, si può, soprattutto se sei la quasi sconosciuta Syda Garrett e sai che se, dopo Barbara Streisand e Whitney Houston, anche Aretha Franklin dirà di no, il microfono accanto al dio del pop toccherà proprio a te. E così preghi, preghi e preghi ancora, e alla fine qualcuno ti ascolta. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. In Italia. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile scegliere. uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dovere ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto, e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, con le rubie un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Is it getting better?

1989. Forse non è la più bella delle cantanti americane e forse non è nemmeno la più in voga del momento, ma senza dubbio è la più inaccessibile, soprattutto per un maschio bianco britannico, perché lei con un uomo non l'ha mai fatto. Cantare, intendo, non ha mai accettato di dividere il palco con un individuo dell'altro sesso. È una vergine di 200 libbre e lui è il prescelto. In Italia. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poter tenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita. Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. 1992, Londra, Wembley, il tempio del calcio è pieno. Non c'è spazio nemmeno per un respiro. Una voce mediosa ricorda migliaia di persone elettrizzate e stanche di donare, donare e donare per sconfiggere il diavolo del nostro tempo, quel maledetto AIDS. Poi sale lui, canta come un dio, si sposta un po' di lato e con calma crea la leggenda. in Italia. Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi. Ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene. Questo non lo so. Stupido testone, dubbi non ne ho. Anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vero. Di storia della musica si ferma e torna tra poco solo su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica su Radio 105. 1998. La odia quella p***a, la vuole vedere morta. Per difendere quello sciancato del suo ballerino portorico del cazzo le ha messo le mani addosso, quella culona isterica, e le ha fatto un occhio nero sta m***a. Ma lei gliel'ha fatta pagare a quella cagna. Le ha spaccato il labbro di sotto con una testata a quella stronza. E stasera, quando saliranno insieme sul palco degli MTV Awards, staremo a vedere chi è messa peggio, mentre fingendo, ancora una volta, di essere super amiche, prenderanno il microfono e canteranno questo. In Italia. Così gli uomini e l'amore, come vedi tanti aggettivi. respiri forte. La tua moto da motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me. Ed attendo che sia amore. Mamma, io sono con te ogni giorno. Perché di te ho bisogno. Non voglio di più. Dal tuo esame mi fai bene. Sean è in veranda. È una bella serata a Kingston e si sta fumando una torcia dondolando sulla sua amaca. A un certo punto arriva suo fratello. Tiene in mano un telefono e fa una faccia strana, tipo uno che si piscia addosso sui carboni ardenti. Che c'è? Che cazzo c'è? Chi ha il telefono? È solo Beyoncé. Vuole sapere se Sean vuole fare un salto a Miami per cantare con lei un disco da 10 milioni di copie. Ok, facciamo le valigie. Però prima finiamo sto cannone. How you feel? I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't know the love is deep. Baby boy, not a day goes by without my fantasy. Come on, girl, tell me what's the deal. I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't know the love is deep. Oh, my baby's fly, baby girl. Yeah, yeah. They're ready for really get to life. Tell me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come tell me in the night, I make her get it amplified. But I'm quick for run the ship, man, I go slip, man, I go slide. In other words, the love I got to give is certified. For giving the toughest, longest time for mine, girl. Baby boy, you stay on my mind. Caso in Italia. Che sei bella, che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. Sei solo tu, i gesti miei, sempre più ormai. 1995. In Italia c'è questa che funziona un bel po' e va forte ancora oggi. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non è.